presentiamo. Beh. Allora io direi di fare così, che ci presentiamo. Marco, e sono trascinante lo Scott e seguo la piccola scuola di pace di Isolotto. Però cioè, diciamo che questo laboratorio mi interessa, sarei nuovo lo stesso anche se non fosse stato trascinante, perché mi interessa molto. Io sono Afri, sono parte della piccola scuola di pace. Come si chiama? Afri. Ah, sì. Come Afri? Brava. Afri. E diceva sono membro della piccola scuola di pace. Grazie. Io mi chiamo Laura, sono qui perché grazie ad Annalisa che mi ha girato l'avviso. E ci siamo conosciuti con Annalisa perché da un certo momento in poi ho cominciato a frequentare il forum dei beni comuni, il forum Civism. Faccio parte di un comitato cittadino che è quello della manifattura tabacchi dall'altra parte del... e diciamo che mi definisco un cittadino attivo, ecco, interessato e curioso di tutto ciò che accade e che possa in qualche modo contribuire a migliorare un po' la vita. Mi è sfuggito il suo nome. Laura, grazie. Prego. Io sono Tommaso, faccio parte di Statuto in Transizione e niente, le monete locali è un tema della transizione che però io personalmente ho capito poco. Ci sono entrato poco nell'importanza, anche se intuisco che ci sia questa importanza chiave, comunque un po' di economia in generale, sono un agronomo e niente, quindi mi interessava approfondire questo argomento anche attraverso il metodo maieutico che insomma alla fine mi incuriosisce molto e non ho mai provato. Grazie. È un dono. Ultimamente ho scritto intorno al forest, alla città foresta. Foreste edibili. Anche lì nella transizione c'è insomma sempre grave. Perché la transizione comunque è parte della permacultura. Come idea. Infatti, sì, permacultura della foresta giardino. Sì. Sembra una cosa. No, ma per dirvene una, c'è un villaggio vicino a Torino, cui stanno facendo questa sperimentazione e costruiscono le case sugli alberi. È meraviglioso. Quindi immaginate un quartiere. Una città costruita così, come io la chiamo città foresta, ma una foresta in cui la maggior parte delle piante sono piante che producono per l'alimentazione umana. Ma la cosa incredibile è che la produttività di queste piante, cioè di questo sistema, che poi è un ecosistema agricolo-forestale, che quando è a regime... L'unico lavoro che devi fare, per me è un paradiso terrestre, l'unico lavoro che devi fare è la raccolta. Dalla finestra. E vedrai che la produttività, stiamo già uscendo fuori tema, però è bello uscire fuori tema e divergere, io sono... La produttività è doppia di quella dell'agricoltura intensiva, doppia. E uno dice, ma come mai? Perché c'è l'amore. No? C'è l'amore, va bene, di sicuro, perché lì l'amore diventa relazione tra... di sicuro quello che non c'è lì è la violenza, no? Con cui noi pretendiamo di coltivare. No? Lì cosa succede? Che tu, è come se avere più campi uno sopra l'altro. Per cui c'è il livello di base dove trovate gli ortofrutticoli, le verdure... Poi salendo c'è il livello degli arbusti, poi c'è il livello delle piante da frutto, il livello degli arbusti non so, un po' più in alto, le fragole, i lamponi. Per enumerarli tutti appunto ci vuole l'agronomo, ci vuole l'esperto, poi un pochino più in alto c'è il livello degli alberi da frutto, poi gli alberi di alto, ancora più alti, pensate non so, noccioli, castagne, eccetera. E interagiscono secondo un ecosistema. ma è un ecosistema agricolo forestale all'interno del quale si può abitare. E pensate che sono stati, cioè io sono venuto a contatto con un ingegnere della Toyota che ha sperimentato un modo per far venire la foresta dove prima non c'era nulla in spazi ridotti e in un tempo di 10 anni. È fantastico. C'è un TED Talks. Come nasce questo? L'hai visto? Sì. Cioè, sono curiosa alla nascita, cioè chi ha avuto l'idea? Ma le idee ormai circolano in una maniera che... Ma è un ecovillaggio. È una sorta di ecovillaggio, sì, sì. In Trentino, in Svizzera. Ma per dirmi, guardi, io appena sono arrivato qui al Isolotto, mi è venuto in mente che a Cuneo, lì sono dei cittadini, che un'area che era un parco dove non c'era nulla se non il prato, e loro hanno progettato da qualche anno ormai una foresta edibile. Cioè l'idea del parco, non solo con piante ornamentali, ma l'idea del parco che è gestito dalla cittadinanza e che diventa una foresta edibile. Bellissimo. E comunque se ti metti a coltivare la terra a mano e con la tua imprinting, che può essere di una persona esperta, cioè alla fine secondo me si tende a un sistema del genere. Se lo fai a mano, se lo fai a macchina già cambia tutto, perché te a quel punto devi strutturare tutta a seconda di quello che è necessario per la macchina, perché la macchina ci deve passare, perché la macchina non deve... Cioè, quindi cambia tutta la prospettiva. Ma se lo fai a mano, secondo me alla fine tendi a dei sistemi così, che poi possono essere diversi, estremamente diversi a seconda di dove sei, chi sei e come fai le cose. Insomma, per me ci hai dato questa occasione per fare questa piccola... digressione, prego. Maria. Maria? No, Maria. Mania, ok, sì. Niente, ci ho fatto di statuto in transizione. Sì. E anch'io questo tema non l'ho ancora capito bene. Sì. Ne approfitto per... Sì. Bene. Sono Giovanni e ho il piacere di... insieme alla realtà di questo posto, in realtà la comunità dell'Isolotto, siamo partiti un anno e mezzo fa con l'idea di piccola scuola di pace dell'Isolotto e sono contento che oggi realizziamo questo. Stiamo andando passettino passettino, nel senso che non muoviamo un po' le oceaniche, quindi siamo, come dire, nella normalità se siamo 7-8 persone. Io purtroppo poi non potrò essere dei vostri in lavoro organico, quindi vi lascio il campo, diciamo così, però sono estremamente contento che Francesco sia qui da Pisa, giusto? Ricordo bene? Sì, sì, da Pisa. Mi fa moltissimo piacere, che sia una, credo la terza o quarta volta che noi altri si fa qualcosa insieme. Ormai avendoci anche il tram che ci unisce in maniera molto semplice. Erano tutti lontanissimi fino all'anno fa. E ora invece siamo quasi dietro l'angolo. Volevo solo dire che questo tema su cui lavori, Francesco, secondo me è un tema decisivo, era un po' un pezzettino che mancava qui nel quartiere, quindi sarà bene poi coltivarlo, questa idea, insomma, della valorizzazione dell'economia locale. Mi fa piacere che il nostro chiacchierava prima, anche Francesco è venuto e ha detto: ah, però, come dice un mio papà di un'amica di mia figlia, il più bel quartiere della più bella città d'Italia, sì, o forse del mondo. Sì, sì, sì. Quindi, però appunto c'è ancora tanto da fare. Una delle idee della piccola scuola di pace era quella di mettere in circolo conoscenze su dialogo, sostenibilità e costruzione della pace in generale nel quartiere, anche valorizzando quello che nel quartiere c'è e poi chiaramente contaminandosi, facendo venire anche risorse da fuori. E credo, io ho questa idea, che è un'idea di sedimentazione. Se voi venite qui la domenica mattina e incrociate la comunità dell'Isolotto, vedete che loro sono da 50 anni che coltivano una certa idea di fare comunità, di fare spiritualità, eccetera, molto concreto, molto... E tu lo vedi proprio da come parlano. C'è una sedimentazione lunghissima di una cultura. Allora, noi abbiamo cominciato nel fine 2016, 2017, sarà questo. Siamo ora nel mezzo del secondo ciclo, questa volta i laboratori sono partiti, l'anno scorso avevano molte difficoltà. Quindi a me fa super piacere che ci siate, perché in qualche maniera stiamo un'altra pianticella di questo ecosistema che cresce sicuramente. C'è un altro laboratorio di Francesco che era stato promosso nell'elenco, te lo ricordi? Sì. Sì, proprio sulla comunicare e trasmettere. Sì, sì, sì, dal trasmettere al comunicare. Poi c'è il Dolciano di questo. Viene Francesco e condivide con noi la cultura e l'impostazione di Danilo, che è certo. Un modo di anche riconoscere le persone, sì, sì. Nel 96. Certo. È una cosa bellissima. Sì, sì. Un grande dono. Io attraverso lui ho conosciuto Alberto Labate, sì, sì, che ha collaborato con Danilo negli anni. A partire Cascino e così via. E poi Alberto l'ho incontrato, io sono di Comiso in Sicilia, sì, Alberto veniva a Comiso e ci ha introdotti anche lui alla non violenza, è stato bello incontrarlo, insomma, estremamente arricchente, sì, Alberto. Ma il manifesto, tu che hai fatto, te lo sei intascato? Perché lo voleva attaccare. Sì, no, l'hanno già sulla sedia, di là, accanto alla tua. Sì, che tu hai fatto il foto. Perché così poi l'attacchiamo, sì, l'attacchiamo. Sì, sì. Okay. Ti chiedo l'autorizzazione a, semmai, a rientrare dentro tra una mezz'ora che stai lavorando. Sì, certo, ma certo. Sì, sì. Volevo terminare il... Certo, sì, sì. Giustamente annunciato. Però mi sento ancora una riflessione. No, io, vabbè, faccio parte anch'io del gruppo Statuto in Transizione, e sono un architetto urbanista, ma mi occupo da anni di gestione di processi partecipativi. Questo ha fatto sì che sono entrata in contatto con tante reti in città, perché questo è un mestiere che porta a incrociare tante persone alle quali poi spesso rimani legato, come poi è successo con il forum dei comuni, poi il gruppo di quartiere, poi un'associazione con cui lavoro da tanti anni, che è la Città Bambina. E ho conosciuto Francesco in Sicilia grazie a Danilo Dolci, ai comuni interessi su Danilo Dolci. Il gruppo ADA. E a un gruppo di cui facevo parte, giovane studente di architettura, mi ero laureata, e avevamo iniziato un lavoro con un'associazione internazionale che si chiamava Atelier Ambulante d'Architettura, anche Atelier Ambulante d'Architettura, che raccoglieva studenti dalla Francia, dalla Germania, c'erano Pizziolo, Pava, mi pare. No, no, la sedia ambulante era completamente indipendente. No, no, riferimento all'università, che erano autonome. Totalmente autonomi dall'università. E all'università lavoravo col gruppo di Magnaghi, Pava, Pizziolo, eccetera, ma era il LAPEI, Laboratorio di Progettazione Ecologica degli Insediamenti. Il gruppo ADA era totalmente svincolato dall'accademia e facevamo cantieri di autocostruzione. A uno dei quali ho partecipato, esatto. A Scandicci, meraviglioso. E però ci eravamo già conosciuti prima in Sicilia. Sì, a Messina. A Messina. Perché a Messina lavoravate per la riqualificazione del quartiere di Giostra. Del quartiere di e Giostra. Lì avevamo fatto una bellissima mostra su Danilo Dolci con l'archivio storico degli anarchici siciliani. Certo, con Natale, mi sa. Esatto, e poi lì ci siamo conosciuti. E quindi sì, poi all'università Francesco l'avevo già invitato a fare un laboratorio maieutico alla fine di un corso di formazione sulla progettazione partecipata. La valutazione finale del corso la facemmo col metodo maieutico, non so se ti ricordi. Sì, sì, e poi niente, ci siamo rivisti sporadicamente ed era una vita che volevo che lui venisse a fare questo laboratorio sull'economia locale e la moneta. E capitata l'occasione tramite la scuola di pace, ma io spero che ce ne saranno altri, sì, incontri. E voglio dire anche che Francesco ha scritto un libro e mi piacerebbe che venisse a presentarlo a Firenze in futuro, così diciamo, passiamo dall'economia locale all'economia globale, perché sul libro un'analisi forse lo puoi dire meglio. Almeno una copia di un'occhiata alla cellula. Continua pure io per No, no, insomma, avevo anche provato a trovare degli spazi nel quartiere appunto dove fare la presentazione del libro, ma erano un po'... o volevano, insomma... No, c'erano una volta che chiedi uno spazio, è difficilissimo trovare spazi gratuiti, questo è uno dei pochi spazi che mi è dato gratuito. La sala del parterre, che è gestita dal quartiere 2, te la danno con le spese vive che sono la corrente e se la fai d'inverno un po' di riscaldamento. Noi come marito dei comitati l'abbiamo fatto tante volte, al massimo si spendono 12-15 euro al massimo. E no, vabbè, io lo cercavo nel quartiere, ma insomma. Nel quartiere devi andare ai circoli. No, no, anche i circoli stanno tutti con le pezze al culo. Sì. No, però quartiere, anche il circolo Forte Nuove, quello di via Forte Nuove, che è quello su che dove c'è. Vabbè, comunque ora insomma non ce ne voglio perdere tempo su queste questioni, però. Vi assicuro che trovare spazi gratuiti non è semplicissimo. Vabbè, quindi niente, io sono molto contenta. Allora, dico anch'io due parole. Questo è un tema cruciale di cui non sappiamo niente e quindi spero che cominciamo un percorso per capirci di più. Mentre vai via, mentre sei via, chi comincia a chiederti cos'è la moneta. Ok, tu cominci a chiedertelo poi, no? Perché questa sarà la prima domanda. Sì, questo è il primo interrogativo. Poi ci dirai cosa hai pensato nel frattempo. Metti in moto un pensiero laterale. Domanda. Allora, io mi presento a mia volta. Lavoro nella scuola. Sono un fisico. Sì, sono un fisico di formazione. Appunto, il mio è un lavoro educativo, essenzialmente. No? Allora voi potreste pensare, ma com'è che ti sei occupato a un certo punto di economia? Ho scritto anche di Danilo Dolce quando l'ho incontrato molti anni fa, quando ho iniziato a lavorare nella scuola. La cosa che mi colpì di lui la mattina che una carissima collega Anna mi disse: guarda, abbiamo invitato Danilo, ci devi essere assolutamente Francesco, io non chiedevo perché, però avevo intuito, insomma, dall'emozione con cui lei mi diceva che quello era un'occasione importante. E, insomma, successe che entrai in quest'aula, c'erano più di una classe, ma tutti messi in cerchio rigorosamente, e a ciascuno Danilo aveva chiesto: dimmi qual è il tuo sogno, chi sei, chi vuoi diventare. No? E già questo, fare questa domanda a uno studente, insomma, a quell'età, io lavoravo in una scuola superiore, già questo era qualcosa di nuovo per me. Dopodiché, quando chiese quindi a ciascuno di presentarsi, quando arrivò il suo turno, disse di sé, Danilo: mi chiamo Danilo, non faccio lezioni, pongo interrogativi intorno a cui discutere. Questa è stata la sua presentazione, che mi colpì profondamente. Io ricordavo diciamo, nella mia formazione da fisico, che i momenti più belli erano quelli in laboratorio, per esempio, quando intorno a un problema si discuteva tutti insieme alla ricerca di una soluzione. Quelli erano i momenti più belli. E scoprì poi nel corso del tempo chi era stato e così via, una delle più grandi figure della non violenza del Novecento. E come mai mi sono messo a lavorare intorno ai temi dell'economia? Ma già anche Danilo lo faceva, lui come formazione è un architetto. E Danilo organizzò nella Sicilia degli anni 60 un grande convegno per la piena occupazione. Questo era stato previsto dalla Costituzione, lui ha lavorato intorno all'articolo 4, gli scioperi bianchi, perché diceva se il lavoro marcia, il lavoro ce l'ha, sciopera astenendosi dal lavoro. E chi non ce l'ha come fa? Beh, allora loro misero a, hanno progettato la cosa, Danilo poi finì questa manifestazione. Chi non ce l'ha cosa fa? Si misero a sistemare una strada sterrata, si misero a lavorare, a sistemare una strada che era utilizzata dalla comunità, ma era una strada dissestata e fu adottata per questo. Insomma, questa è la mia conoscenza di Danilo e poi da anni io sperimento nella scuola il metodo, diciamo, il metodo maieutico di Danilo Dolci. La difesa di Danilo Dolci la faceva Calamandrei, sì, sì, sì. Un discorso bellissimo. Sì. Che meraviglia essere di fede a Calamandrei. Ah, beh, cioè. Ma guarda, è uno dei giorni della Costituzione che ti difende, io credo. Se trovi qualche registrazione, qualche trasmissione, ci credo. E guardi, qualche anno fa, nel 96, a Pisa, scusi, nel 2006 abbiamo organizzato una settimana è stata intensissima, poi abbiamo coinvolto, eravamo io e Paolo Benvenuti, il regista, abbiamo coinvolto tutta la città, dall'università ai quartieri, eccetera, abbiamo fatto una settimana intorno alla figura di Danilo Dolci, che era il decennale della sua morte, lui è morto nel 1997, alla fine del 97. E tra le tantissime cose, anche teatro, in cui si rievocava la difesa di Calamandrei in difesa di Danilo Dolci, appunto, e tutto il discorso. Bella maestra. Ecco, è quella che proveremo a sperimentare proprio oggi pomeriggio. Maieutica è l'arte della levatrice. L'arte? Della levatrice, che aiuta il parto, no? Che asseconda il parto, lo interpreta, lo aiuta. Chiaramente qui nel nostro caso è un parto di livello. Prima di iniziarci a questo vi devo dire, mi sono messo a studiare in questo punto. Quando ho finito, no? Io cercavo, tra i libri di Danilo, una frase che in qualche modo legittimasse la mia ricerca, io non sono un economista, ma da educatore nel campo dell'economia. E ho trovato questa, ma l'ho trovata subito, e mentre si suona più tra noi, ma lo è in un altro modo, vedo che l'ho trovato subito in uno dei suoi libri. Allora, in uno dei libri di Danilo, no? Ma quasi subito, io la cercavo intensamente, e ho trovato subito Danilo che mi parlava e diceva così: c'è il volgarizzatore, anche utilissimo, e c'è chi si mette, indipendente dalla forza costituita, a suscitare nel popolo verità vive, a cercare strade più vere, in modo che nuova forza nasca dalla verità. E questo, credo, è un educatore. Dice così Danilo. E io ho capito che avevo lavorato nella direzione giusta. Quindi è con questo spirito, insomma, che ho lavorato. Allora, che cos'è la maieutica? La sperimentiamo oggi pomeriggio. È esattamente il contrario di quello che purtroppo avviene in quasi tutte le scuole, dove ai nostri ragazzi viene fatta la lezione e dopo gli viene chiesto di ripeterla, magari il più fedelmente possibile. si può lavorare con gli studenti e moltissimi lo fanno, purtroppo non sono la maggioranza, sono sempre in minoranza, e si può lavorare capovolgendo completamente le cose. Ai bambini possiamo porre interrogativi e loro immediatamente diventano attivi a cercare possibili risposte e a fare altre domande. Essenzialmente è tutta qui la maieutica, è l'arte di interrogarsi. È vero che non si può improvvisare, se ne può avere l'esigenza, non si può improvvisare, nel senso che bisogna rivolgersi a tutto quello che nel corso dei secoli abbiamo imparato. Anche Danilo faceva riferimento a Socrate, però io ricordo uno dei suoi lavori intorno al superamento della maieutica socratica. Quindi, cos'è la maieutica? È l'arte di interrogarsi insieme. Esattamente il contrario di quello che succede, per esempio, in televisione, in talk show. E, diciamo, la maieutica è un tentativo di far emergere i punti di vista di ognuno, le perplessità, i dubbi, e cercare di risolverli insieme. Ma interrogarsi in senso ampio, intorno alla ricerca di soluzioni per prendere decisioni e così via di seguito. E insomma è con questo spirito che io la domanda che ho fatto a lui la pongo anche a voi per iniziare ad entrare. Poi via via, ora siamo in pochi, ma via via dirò anche qualcosa di più su come si procede maieuticamente, in corso d'opera. Ecco. Allora la prima domanda che vi pongo è di riflettere intorno a questo interrogativo, no? Noi abbiamo a che fare con i soldi tutti i giorni e allora dobbiamo domandarci cosa sono i soldi, perché? Per un motivo che abbiamo sotto gli occhi e che questo non può essere. Il motivo è questo: spessissimo sentiamo dire che manca il lavoro. Dopodiché, se noi ci guardiamo intorno, vediamo che c'è tantissimo lavoro incompiuto. E quando anche i nostri giovani riflettono e dicono: ma come non c'è lavoro? Si potrebbe fare questo, quest'altro e quest'altro. Io spesso faccio laboratori di lavoro. Qual è il lavoro incompiuto che abbiamo intorno a noi? Vengono fuori lunghissimi elenchi. E quando appunto ci si comincia a chiedere come mai non si affronta, per fare solo un esempio, il dissesto idrogeologico, da cui l'Italia è un paese fragile, bellissimo ma fragile, un euro speso, diciamo, in prevenzione rispetto al dissesto idrogeologico ne risparmia 100 quando il guaio è fatto, no? E la Toscana? E la Toscana, certo, ne sa. Anche più di lei. Sì. Quindi no, questo per dire, oppure pensate all'enorme patrimonio artistico, storico, monumentale, che rispetto al quale diciamo, non riusciamo più a intervenire. Insomma, i lavori di cura anche delle persone, del territorio, che sono incompiuti. E perché? Perché il capitalismo pretenderebbe, un certo tipo di capitalismo, quando è che è attivo? Solo quando il fatturato è sempre maggiore dei costi, no? Ora, nella situazione in cui siamo, non accade, perché prima era qualcosa che apparteneva al pubblico, oggi non più. E quindi, tornando ai nostri giovani che dicono: ma come? non c'è lavoro, si potrebbe fare questo, questo, questo e quest'altro, lavori di cura, stavamo dicendo genericamente, delle persone, del territorio. E gli viene detto, ma no, non si fa perché mancano i soldi. Non abbiamo i soldi. Ecco la domanda, cosa sono i soldi? Ed è la domanda che vi rivolgo. Ora, attenzione, cominceremo a riflettere intorno a questo, proprio due minuti, così schematicamente vi appuntate le cose che vi vengono in mente. Ma se vi venissero in mente delle ulteriori domande su questo, è importante che le condividiate. Quindi, la prima domanda è questa che vi pongo. Cosa sono i soldi? È quello che vi viene in mente, liberamente, anche se fossero due parole. Cosa sono i soldi? Ecco. Non solo carta. Allora, pensiamoci due minuti, vi appuntate quello che vi viene in mente, e dopo questi due minuti ci aspettiamo. Intanto, relativamente alla maieutica, a scuola non viene dato il tempo per pensare. Il tempo per pensare non riusciamo a darcelo nemmeno nei nostri incontri da adulti. Bisognerebbe che imparassimo a lasciare, cioè ogni volta che diciamo qualcosa, bisognerebbe lasciare un po' di tempo, cioè una sorta di pausa all'interno della quale i nostri pensieri possono anche, diciamo, possono avere lo spazio, il tempo per svolgersi, perché noi parliamo troppo in fretta. E spesso soffriamo di una sorta di incontinenza. Sì, è vero, non ci dà spazio. Non sappiamo dare spazio agli altri. Mentre parlare insieme è un po' come, diciamo, partecipare a un gruppo musicale. Ciascuno deve sapere quando è il momento, ciascuno deve mantenere il tempo, diciamo, no? Deve sapere che non deve prendere troppo tempo e così via. Insomma, questa è una cosa importante su cui riflettere, il tempo per pensare. Il tempo per pensare deve diventare all'interno del laboratorio un ritmo come musicale. Ma infatti le parole che noi utilizziamo sono, cioè, quando diciamo che il laboratorio ha successo, diciamo che si è raggiunto un accordo, non a caso, viene dalla terminologia musicale, no? Oppure siamo entrati in sintonia e così via. Intanto cominciamo. Strumento inventato per facilitare lo scambio di beni. Strumento inventato, lui dice, per facilitare lo scambio di beni. Ok. Io, diciamo, come coordinatore, però guardate, la maieutica è reciproca, nel senso che io sono quello che comincio, innesco le domande, ma poi la maieutica diventa reciproca, nel senso che ciascuno, le domande che gli vengono in mente, deve porgerle al gruppo. Ecco. sulla base della sua domanda, cioè di quello che lui ha detto, io posso, se lo chiedete, farò altro. Allora, ripeto solo un attimo, se volete inventare per facilitare lo scambio di beni. Lo strumento inventato all'umanità per facilitare lo scambio di beni. Ecco, già qui c'è un'altra domanda. Le domande non è necessario rispondere subito, le domande ce le possiamo portare a casa. Io li chiamo interrogativi attivi. Cosa significa? Significa questo, ve lo racconto con un piccolo episodio, no? Che riguarda mio figlio. Lo vedevo giocare, era piccolissimo, e stava contando. Metteva insieme gruppi i suoi giocattoli e contava. Ce n'erano tre da una parte e cinque dall'altra. E li contava, diceva 3, 4, 5, è arrivato a 8. 3 più 5, 8, no? Io lo ascoltavo e gli chiesi a un certo punto, Tancredi, ma 3 più 5 fa 8, ma mi dici 5 meno 8 quanto fa? E lui proprio non mi ha assolutamente ascoltato, ha continuato a giocare. Ha continuato a giocare, ma proprio non mi ha considerato. E io vabbè, ho lasciato. Sono passati 3 mesi, passata tutta l'estate, perché era l'inizio dell'estate, ed era di nuovo lì che giocava. A un certo punto, mentre giocava, si alza e mi fa: babbo, ma non si può mica fare 5 9, perché ne mancano 3. Aveva concepito in questi 3 mesi i numeri relativi, no? Cioè, piccolissimo, aveva 3 anni, 4 anni, piccolissimo. Questo è un altro mio libro, il primo, si chiama Seminare domande. Seminare domande è una cosa importante. E quello vi dicevo, gli interrogativi possono rimanere attivi dentro di noi. D'altronde, quando noi mettiamo piede in una libreria, alcuni libri ci attivano perché promettono una risposta a quella che è la nostra ricerca, no? Ciascuno di noi ha un suo percorso. Questo è. Andiamo avanti. Soltanto come ha detto lui, io la domanda che farei è: che differenza c'è tra bene e merce? Che differenza c'è? È una domanda importante. Però vi ripeto, ce le possiamo appuntare queste domande, ed è importante perché il laboratorio deve generare altri interrogativi. A chi vuole? Ho scritto una risposta simile alla sua, però è un mezzo per accedere a beni e servizi. Ok. Quindi tu pensi più all'accesso? Sì. Mi è venuta così. Ok, benissimo. Facilmente le tue merci, quello che tu produci, però può essere un fine per un consumatore, perché se io sono non produco nulla, cioè alla fine la moneta è l'unico mezzo che io ho per accedere alla possibilità di acquistare beni e servizi che mi permetteranno di vivere, quindi in quel caso lì diventa un fine, cioè io nella vita ho bisogno di procurarmi questa moneta per riuscire a vivere e quindi in quel caso è sì. Allora, è interessante quello che dici, Tommaso, vero? Sì. In questa situazione, immaginate che di essere su un'isola deserta e avete con voi un milione di dollari, di euro, come volete. Siete però su un'isola deserta. Allora, la domanda che vi faccio è: siete ricchi? Perché correlata alla prima domanda, questa domanda, ne faccio subito un'altra, che è questa. Cos'è la ricchezza? Cos'è vera ricchezza? Allora, continuiamo, grazie. Non so se volevi aggiungere. No, volevo dire una cosa al volo, perché mi ha superato. Scusa, Chi è che ha deciso che i soldi valgono? Ah, bellissimo! Dovevi portarlo! Vedo molto lontano. Infatti io mi sono divertito, non è che poi ho dato una risposta. Come si fa a dare una risposta? Ma è una bellissima domanda. Ma poniamocela questa domanda anche noi. Questa domanda, vedi, tuo figlio è entrato nel laboratorio con questo interrogativo. Chi è che decide che i soldi valgono? Va bene, prego. Che volevi dire questo? Cosa hai pensato? Io ho pensato cosa sono i soldi, falsa tranquillità, perché per esempio la salute non i soldi non ce l'hanno. È qualcosa, è una falsa tranquillità. Ecco, questa cosa che è scheletra personale, diciamo, ecco. Io non sono riuscita a parlare di mia madre, perché avevo la possibilità, mia madre non lo sapeva, quindi quello che avevo non voleva nulla, insomma, la rabbia, l'impotenza di non poter. Sì. Ecco, questa era l'esperienza di sua. Certo. Ai soldi come un simbolo di un valore, ma anche un simbolo, un segno, ho messo tutte quelle parole, di una valutazione più che di un valore, non solo di valore ma di valutazione, un mezzo. E poi mi sono detta, cioè una cosa sempre mi è venuta, nell'antichità i soldi erano pezzi d'oro, d'argento, di bronzo, quindi avevano un valore intrinseco proprio, con cui si poteva scambiare il valore dato, però adesso, e me l'hai fatto venire in mente tu, i soldi non hanno un valore intrinseco, sono pezzi di carta e pezzi di metallo che non hanno quasi nessun valore intrinseco. Quindi c'è la domanda del simbolo. Ma chi se lo dà questa domanda? La domanda giusta è quella. Tu sei Laura, sì. Ma sei un economista in pratica, sai, perché hai individuato subito uno degli aspetti che abbiamo sotto gli occhi e però non è così facile vedere. Appunto, cosa sono i soldi? I soldi ci permettono di misurare reciprocamente il valore delle cose, cioè sono unità di misura. Gli economisti dicono unità di conto. E l'altro aspetto che hai toccato è estremamente importante. In passato i soldi erano anche, pensate ai romani, chiamavano i soldi pecunia. Perché? Perché in quelle antiche società la pecora, pecunia vuol dire pecora, viene da pecora, la pecora era un elemento estremamente importante, no? Attività fattorizia e così via. Per cui la pecora diventava l'unità di misura del valore delle cose, dei beni. Era come dire la casa vale tot pecore, no? Unità di misura. Allora, cosa sono i soldi? Gli economisti dicono unità di conto, intendono dire unità di misura. Se io voglio misurare una lunghezza da lì a là, utilizzo il metro. Se voglio misurare il trascorrere del tempo, utilizzo il secondo. Se voglio misurare il valore delle cose, utilizzo la moneta. Come sapete, quando si va in un paese straniero, dove hanno un'altra moneta, cambia l'unità di misura. E quindi bisogna rapportare, è come quando da metri si passa a chilometri. Quanto vale uno yen o una sterlina in lire o in euro? E poi l'altra cosa che ho detto Laura, ti vado il tuo posto. Sì, ma infatti mi sentivo un po'. È che appunto non è più così, e non è più così, prima dietro il denaro c'era l'oro, ma non è più così dal 1971, in cui il denaro è diventato, in termini tecnici si dice fiat, ma fiat è in senso biblico, fiat lux et lux fuit, no? Cioè il denaro oggi si crea dal nulla, ed è questa un'affermazione un po' strana a cui dovremo pensare insieme. Ma per rispondere, per capire questa affermazione, dobbiamo chiederci cos'è la ricchezza, e in particolare fa riferimento alla nostra Costituzione, all'articolo 1, dove si dice che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Questo fondata sul lavoro, in questo fondata sul lavoro è inscritta, diciamo, la risposta anche all'interrogativo che ci stiamo ponendo. Cioè, cos'è la ricchezza? Chi è che genera ricchezza? Ora, ripensate all'isola, ma vi metto in un'altra situazione. Immaginate che c'è una sorta di sortilegio e domani ci svegliamo qui a Firenze e tutti i soldi sono completamente spariti. Non c'è più moneta nei nostri portafogli, né di carta, né metallica, e anche le banche sono chiuse. Sappiate che la maggior parte della moneta è quella bancaria, ma insomma se ci arriviamo ne parliamo. Pensate che è il 97% la moneta bancaria e il 3% assume la forma di banconote e di monete metalliche. A questo dovremmo, se il lavoratore proseguisse, allora il sortilegio è questo, ci serve per ragionare, ci mettiamo in una situazione radicale, di cambiamento radicale. Noi domani ci svegliamo e non abbiamo più la moneta. La domanda che vi faccio è: cosa accade? La prima è: ma siamo più ricchi? Siamo più poveri? E cosa accade in termini pratici? Come nel film non ce ne parliamo. Giusto? Sì, potrebbe essere. Svegliamo, allora, cosa dobbiamo fare? Immaginiamo. Immaginate che domani noi ci svegliamo, qui a Firenze ci si sveglia, a tutti, non solo noi, e non ci sono più i soldi. La domanda che vi faccio, ma noi siamo più ricchi o più poveri in questa situazione? Questa è la prima domanda. Questa è la prima domanda. Cosa rispondereste? Perché mi sono immaginata che la prima cosa che farei è già pensando a un meglio. Sì, ho pensato, non ci ho cibo a casa, vado al mercato, tu cambio quella cosa che non ho quindi della cosa. Sì, ma lo scambio può essere, diciamo, di qualunque tipo, cioè non solo gli oggetti, no? Cioè, cerco di barattare qualunque cosa, il mio tempo, cioè le mie capacità, cerco di attivare dei meccanismi per avere la frutta e la verdura in qualche modo. Quindi, Annalisa dice, intanto siamo tutti paralizzati, però lei dice siamo più ricchi o più poveri nella misura in cui riusciamo a mettere in piedi un sistema di baratto. Sì, questo dice. Perché poi ho pensato, invece uno per esempio è anziano, è fragile, non riesce a cambiare niente, si ritrova molto povero. Non ha la pensione, giustamente, cioè non gli arriva più la pensione. E non può nemmeno scambiare niente. Magari come malato, uno che non può Sì. Benissimo. Altro questo che pensate? Dipende da come diciamo utilizziamo, perché siccome c'è acquisizione di beni, soltanto un'acquisizione di beni è come, come altri, cioè, ad esempio non per forza bisogna avere qualcosa a mio parere per essere ricchi. Ci può essere anche un'altra ricchezza, potrebbe essere tipo spirituale, penso. Una ricchezza interiore, un differente modo di vedere la ricchezza. Quindi non saprei, cioè, una volta svegliato da questo, diciamo, no, ma non ti svegli, no, infatti, forse, succede che veramente non ci sono i soldi. Allora, cosa succede in questa città? Dobbiamo cercare di immaginare cosa succede in questa città, insomma. Lei un po' l'ha immaginato e ha cominciato a pensare, avete visto, ma forse ci possiamo salvare col baratto, ha detto, no? Potrebbe essere un modo per, forse l'unico modo per ripartire, per creare un qualcosa di diverso, un sistema diverso. Per creare un sistema diverso. Bene. Sentiamo, se avete... Prego. Come una risposta a quello che stavo dicendo. Come dice? Ancora io non ho risposto. Ah, sì, ma se vuole dire, prego. Perché quelle che sono quelle soldi sono quello che dice lui, sì. Perché vedrai uno scambio di merce, diciamo. Però per me sono state anche un mezzo di comunicazione, perché io sui soldi ci scrivo. Ci scrivo dei messaggi che devono toccare un po' il cuore delle persone. Va bene questo. Sono messaggi della bocca. Perché tanto i soldi li tocca a tutti. Sono 16. Ah, cioè tu li scrivi su. Però io ci scrivo. Ma la cosa che li mandi in giro. E li mandi in giro. Devi scrivere dei pensieri. Ma c'è sì, ora io ci scrivo cosa vogliono. Non mi è mai capitato. Fate della domanda, come mai. Ma sì, cioè, ora, io le devo dare una stessa notizia, che vogliono eliminare le banconote. Ecco, il contatto. Dove scrivo dopo? Esatto. Ma chi le vuole eliminare? Che ci sarà le banconote? E già qui c'è una domanda importante, dobbiamo porci. Come mai le vogliono eliminare? Questa è una domanda importante. Vabbè, voleva aggiungere qualcosa? Poi, dopo ho detto questo, per quanto riguarda la ricchezza, perché la sua domanda che ci ha fatto, sì. Io sono d'accordissimo con lui. Per me è una ricchezza, prima di tutto, la ricchezza deve essere interiore. Sì. Avere la capacità di comunicare con le persone, di stare insieme, di rispettare gli altri e di avere una forte spiritualità. Io ci credo molto a questa cosa. Sicché, la ricchezza per me, più che la ricchezza money, è quella salutare interiore. Poi per quanto riguarda che tu hai detto, se poi non ci sa soldi, una mattina ci sveglia, c'è più soldi, magari, almeno forse ci si rimbocca le mani e si comincia a stare un po' più insieme e a fare delle cose diverse. Poi, giustamente, come diceva Annalisa, bisogna mangiare, scherzo, c'è soldi, si può andare in metà con la spesa, cioè io voglio dare quello sotto a me e voglio pigliare le cose c'ha nell'otto, però in cambio le devo dare comunque qualcosa, non è che posso andare in via che voglio. Ecco, allora, io credo che tutti intravediate delle difficoltà, e infatti questa è una domanda importante che dobbiamo farci, ma quali sono le difficoltà del baratto? Quali sono le difficoltà? Cerchiamo di entrare in questa situazione, e questa è una domanda che dobbiamo porci. Quali sono le difficoltà veramente del baratto, se dovessimo fare a meno dei soldi che riconosciamo e di tornare a un sistema di baratto tradizionale? Che poi all'inizio era così. Ecco, forse vorrei aggiungere qualcosa? No. Bene. Forse dobbiamo sentire Laura. Allora, io sono ancora ferma alla domanda che cosa accadrebbe nella mia testa. Cosa accadrebbe? Allora, istintivamente la prima cosa è stata: saremo tutti più ricchi. Questa è proprio la prima a livello inconscio che mi è venuta. Poi ho detto anche: uguali. Cioè, alla fine, il fatto di non avere chi più chi meno, ma essere tutti senza, ci mette veramente tutti sullo stesso piano. Non ho pensato al fatto il vecchio e il giovane, quello un pensiero, proprio tutti uguali. E poi, ecco, mi verrebbe da dire ora sul baratto che ognuno in qualche modo è chiamato a mettersi di fronte alla verità di se stesso. Chi sono? Che cosa so fare? Come posso essere utile agli altri? E veramente il mio modo cambierebbe anche di valutare l'altro. Non in termini puramente utilitaristici, di tornaconto, ma proprio di sostanza, di capacità. Certo. Sì. Metto al corrente, diciamo, sì, ci siamo interrogati, la domanda è cos'è la moneta, e sono venute fuori diverse cose già, tra cui la moneta ci permette di scambiarci beni e servizi, possiamo dire, no? Ci siamo domandati che differenza c'è tra bene e merce. Poi abbiamo scoperto che la moneta è unità di misura, questo non è banale, è unità di misura del valore delle cose. Quando lo scopriamo, quando ci viene detto, allora ci sembra banale, ma prima no, la moneta è unità di misura del valore delle cose. La prima cosa che viene in mente a tutti, lo so per esperienza nei laboratori, è che la moneta serve per scambiarci e ci si ferma lì. Laura è andata avanti e ha detto che in passato avevamo a disposizione una moneta merce. Abbiamo parlato della pecunia, sono tantissimi gli esempi che si possono fare, anche l'oro era moneta merce. Ma abbiamo detto che la situazione in cui siamo oggi è del tutto diversa, abbiamo a che fare con una moneta fiat, nel senso biblico, fiat lux e lux fui. Dal 1971 non c'è più l'oro dentro la moneta. La moneta si crea da nulla. Domanda è, chi crea la moneta oggi? Questa è una domanda estremamente importante. Chi crea la moneta che entra in circolo e che noi utilizziamo? Collaterale è venuto fuori un altro aspetto. Che tipo di moneta utilizziamo? Abbiamo accennato alle monete metalliche, alle banconote. Io ho accennato al fatto che le monete metalliche sono lo 0,3%, questo lo dico ora, della moneta che noi utilizziamo. Circa 5-6 miliardi sotto forma di moneta metallica in Italia. No? Il 2,7% sono banconote, arriviamo al 3%, il 97% è moneta strutturale bancaria. Quando per esempio facciamo un bonifico, sì, un assegno e così via. Vabbè, ma questo collaterale lo sto dicendo. Poi ci siamo chiesti, ci siamo messi in diverse situazioni. La prima situazione, per cominciare a capire la moneta, ci siamo chiesti, ma se ci trovassimo su un'isola deserta con 1 milione di euro, saremmo ricchi? Saremmo poveri? Rischieremmo di morire di fame? In che situazione potrei sopravvivere se sono su un'isola deserta con 1 milione di euro. Questa è una situazione che ci deve far riflettere. Poi ci siamo messi in un'altra situazione, che è questa. Abbiamo pensato a una sorta di sortilegio. Ho proposto di pensare a questo sortilegio, per il quale noi domani ci svegliamo e in tutta la città di Firenze, potremmo anche pensare alla comunità più vasta, anche a tutta la comunità nazionale, non ci sono più soldi. le banche ne sono sprovviste, le banche sono proprio chiuse, i nostri portafogli sono senza soldi, non c'è moneta bancaria, non ci sono banconote, non ci sono monete metalliche. E la domanda che io pongo è, in questa situazione noi siamo più ricchi o siamo più poveri? Oppure come potremmo descrivere questo stato di cose? E stanno venendo fuori diverse cose. Quindi se tu ti vuoi introdurre ora questa ragazza che è un po'. Chi stava parlando, tu stavi parlando. Sì, che ho detto di. Sì. Cioè, il discorso appunto, queste tre diverse, tutti più ricchi, tutti veramente sullo stesso piano, uguali sullo stesso piano, e tutti chiamati a interrogarsi in profondità sul proprio valore, che si paura, sul proprio valore. È importante, che attribuiamo sì, agli altri. Annalisa, questo ho dimenticato di dire, in questa situazione ha detto: forse saremmo più ricchi o più poveri a seconda di quello che riusciamo a scambiare. Sì. È venuto fuori anche un altro interrogativo, ma quali sono le difficoltà del baratto? Quali sono le difficoltà del baratto? E poi ancora un'altra, ma sono superabili le difficoltà del baratto? Allora, si vuole dire, al solito, vi ricordo che è estremamente importante il tempo per pensare, e nei laboratori, quando sono avviati, assumono un ritmo, nel senso che ci si ferma a riflettere, poi qualcuno riemerge da questa riflessione, prende la parola e si parla. Per cui io invito spesso a prenderci delle pause di riflessione sulla base di tutto ciò che è stato detto. Quindi questo è importante. Ecco, io scusa, questa cosa c'è una coincidenza che me ne sono accorta ora, proprio perché tu dici che non ci aspettiamo. Io è proprio una coincidenza che vuol dire che io dovrei essere qui oggi praticamente, perché senza essere molto convinta, perché non conoscevo la materia. Io ho guardato cosa c'è scritto in questi fogli che ho preso per appuntare, non l'avevo visto che cosa c'è scritto. C'è scritto bioeconomia, un nuovo modello di economia circolare. Sì. Questi fogli io l'ho presi ad un mese fa circa al conto sui rifiuti. E non avevo letto bene cos'era, e li stavo usando questi giorni. Adesso ci ho messo l'occhio e ho detto, ma non è un caso. Bene. Volevo tornare alla cosa del sortileggio. Sì. E pensavo questo. In linea di principio noi non siamo né più poveri né più ricchi. Però ci manca uno strumento fondamentale per cooperare, per operare insieme. Quindi ora stavo pensando alle mie classiche cose all'inizio della mattinata, no? Prendo il caffè al bar e vado a comprare il giornale. E chiaramente io posso chiedere al giornalaio che ci segna, così come poi farò segnare, no? Però questa cosa della moneta, come dire, il sortileggio è un controsortileggio, perché il sortileggio precedente è che tu hai una moneta che ti permette, o credo che è una cosa di cui abbiamo fatto esperienza tutti, no? Da quando c'è l'euro. Prendo l'aereo, vado in Finlandia o in Austria, in Spagna, e continuo, diciamo, gli scambi, la cooperazione, insomma, no? E che è sicuramente una delle grandi, no, delle grandi fascinazioni di questa cosa. Allora, la moneta è una sorta di sortileggio che ti sembra far funzionare benissimo la cooperazione a un prezzo forse che tu non vedi, che andrebbe chiarito, diciamo così. Se non c'è più, tu non è che sei, cioè, tutto intorno, l'ecosistema continua, le mura della tua casa, i flussi, tutte le cose materiali, e anche le conoscenze, il fatto di essere professore, di avere le competenze, gli studenti sanno che vado da Marco e gli continuo a fare lezione naturalmente, però, cioè, tutto questo non rimane intoccato, però quello che il blocco è un blocco di capacità di cooperare poi tanti di noi, quindi quartiere, Firenze, comunità nazionale oppure Unione Monetaria Europea, sulla base di quell'unità di misura che dicevi. Sì, allora è interessante come hai detto, perché quando ti rivolgi al barista, all'edicolante, per prendere il caffè, per prendere il giornale, hai detto segna. Chiaramente lui segna solo se ti conosce e ha fiducia in te. Esatto. Quindi la moneta possiamo pensare che è anche questo strumento che ci permette di avere fiducia nell'altro nel momento in cui te la consegna, senza conoscerlo. Può sostituire la fiducia. Questo è interessante perché però funziona. Allora, ora potremmo immaginare un sistema che possa costruire la fiducia. E questo è l'altro aspetto estremamente importante. Come si può costruire la fiducia utilizzando uno strumento? Affi prima ci diceva che utilizza le banconote scrivendo su, mandando dei messaggi, no? Quindi in qualche modo questi messaggi che hanno un veicolo come lettore, la banconota, in qualche modo arrivano a un interlocutore, può darsi che ci sia una risposta di costruisce una trama di relazione immediata. Ma in questo modo, no? Cioè come un messaggio nella bottiglia che poi varia. Ecco, ma noi possiamo pensare a costruire comunità con lo strumento monetario adeguato? Questa è una domanda importante. E la risposta è sì, possiamo farlo. E dovremmo vedere come. Però attenzione, ora vi metto in un'altra situazione. Prego, prego. A proposito della collaborazione che è stata nominata, che e che si aggancia al fatto che a me era venuto in mente come idea quello che siamo tutti sullo stesso piano, che siamo veramente costretti a collaborare, ci costringe questa situazione di assoluta eguaglianza di fronte ai bisogni essenziali della vita, ci costringe a guardarci in faccia a collaborare. Perché per quanto uno abbia beni, i beni non se li mangia, quindi comunque si scopre che abbiamo bisogno reciprocamente l'uno dell'altro. Certo. Questo mi ha detto proprio. Sì. Non ci preoccupi, l'aspettavamo. Magari è l'occasione per fare di nuovo, magari lo faccio più rapidamente per introdurla. Lei si chiama? Marina. Posso dare del tu, Marina? Certo. Allora, io sono Francesco, abbiamo cominciato presentandoci, quindi dici un po' di te. Io mi occupo in generale di benessere psicofisico, sono sì. Insegnante di discipline bionaturali, sono anche architetto, mi occupo in parte, sto facendo un percorso di formazione e di sperimentazione su quello che sono una sorta di ricercatrice in ambito di discipline che stanno tra arte e scienza. Che bello! Vita. Sì, non abbastanza, perché un po' che sì. Ho poco tempo. Allora, noi ci siamo presentati tutti, abbiamo iniziato il nostro laboratorio, come sai, sulla moneta e l'economia locale, e lo stiamo facendo in modalità maieutica, secondo i laboratori, Danilo li chiamava, il mio dolce li chiamava gruppi di autoanalisi popolare a suo tempo. Dopo sono diventati laboratori maieutici, nel suo venire. Ci stiamo interrogando sulla moneta. In realtà ci stiamo chiedendo se la moneta è qualcosa di neutrale, o se è qualcosa di più, a cui bisogna prestare molta più attenzione rispetto a quella che abbiamo prestato sinora a questa cosa. E perché? Siamo partiti da una considerazione. La considerazione è questa. In genere si dice non c'è lavoro o non ce n'è abbastanza, tanto che, voi sapete, c'è una disoccupazione che è crescente, soprattutto tra i giovani, e molti se ne vanno all'estero. Però c'è una contraddizione enorme, che è questa. Se i giovani si guardano intorno, vedono che c'è tanto lavoro incompiuto, che ci circonda, in qualsiasi settore. Diciamo genericamente lavoro di cura del territorio, delle persone e così via, che non viene sistematicamente ignorato. Abbiamo accennato al grande patrimonio storico, artistico, che secondo l'articolo 9 della nostra Costituzione dovrebbe essere valorizzato, perché è ciò che fa di noi italiani. Noi siamo italiani non per lignaggio, non per sangue, ma per cultura. Questa è la grande valenza, diciamo, di quell'articolo della nostra Costituzione. Però il nostro patrimonio storico, artistico è lì che ho. Su questo è importantissimo, per esempio, ascoltare un uomo come Tommaso Montanari, il grande storico dell'arte. Ma insomma, la questione è questa. Ai nostri giovani viene detto non c'è lavoro, puoi andare a cercartelo all'estero, puoi emigrare. E lui, il giovane, può rispondere, ma come non c'è lavoro? Ce n'è tanto di lavoro, come mai non lo facciamo? La risposta che gli viene data è, mi dispiace, non ci sono soldi. È per questo che dobbiamo interrogarci su cosa siano i soldi. E la prima domanda è stata, che cos'è la moneta? Allora sono venute fuori diverse cose. Abbiamo detto, la moneta ci serve per scambiarci beni, ci serve per scambiarci servizi. È stato detto la moneta è unità di misura del valore delle cose. Abbiamo detto c'è stato un tempo in cui la moneta circolante era una moneta merce, aveva un valore intrinseco, era un pezzo d'oro, era al tempo dei romani si misurava il valore delle cose in pecunia, cioè in pecore, unità di misura del valore delle cose. Sì. Buona voce del mio. Ciao. Ciao. Sì. Quindi unità di misura del valore delle cose. Allora, per approfondire e dire meglio, ho messo in queste due situazioni. Siamo su un'isola deserta. Siamo lì come naufraghi, abbiamo con noi però $1 milione, o $1 milione, se volete, e questo basta a salvarci su quest'isola deserta. C'è una domanda collaterale, cos'è che veramente potrebbe salvarci in quest'isola deserta? Questa è la prima domanda. La seconda domanda è stata, più che altro una situazione. Abbiamo immaginato un sortilegio per cui noi ci svegliamo domani e in tutta Firenze non ci sono più soldi, non ci sono nei nostri portafogli, non ci sono nelle banche, non c'è quindi moneta bancaria, non ci sono monete metalliche, non ci sono banconote. E la domanda è, ma siamo più ricchi o siamo più poveri? Questa è la domanda. Qualcuno ha detto non siamo né più poveri né più ricchi, ma certamente siamo in grande difficoltà, lo diceva prima Giovanni. Annalisa diceva, ma forse se riusciamo a organizzarci, per esempio barattando, allora può darsi che il problema non sia riuscito. È stato detto che può essere un'occasione per ripartire, è stato detto, no? In cui diventano importanti cose che prima avevamo trascurato. Partiamo tutti alla pari, con una sorta di pari dignità, però diventa importante, è stato detto, quello che ciascuno sa fare. Abbiamo cominciato a vedere le difficoltà. difficoltà del baratto. E abbiamo capito che è necessaria la fiducia. Abbiamo detto, perché diceva Giovanna, io vado dal barista, mi faccio fare il caffè e gli dico segnami il caffè. Ma lui me lo segna solo se mi conosce. Appena mi volta non mi conosce, entro in difficoltà. E quindi cominciamo a capire la meta. Ora, c'è un'altra domanda. Cos'è veramente la meta? Questa è la domanda che ci siamo posti, a cui abbiamo detto anche, ma le domande lasciamole così sospese come interrogazione, noi ci stiamo facendo tutte queste domande, poi avremo bisogno di continuare la ricerca. Ora, io vi porrei quest'altra situazione, attenzione, non più una situazione così radicale, perché noi abbiamo capito tutti che l'economia è come se si paralizzasse. Nel momento in cui ci manca la moneta, l'economia si paralizza del tutto. Se riprende, riprende con estrema difficoltà nella misura in cui riusciamo a barattare qualcosa. Però dovremmo molto riflettere sulla difficoltà del baratto quando lo pensiamo in senso tradizionale. E dobbiamo riflettere su come questo può essere superato. Ma ora attenzione, l'economia si paralizza, ma tutti abbiamo intuito che, come diceva Giovanni, non siamo né più ricchi né più poveri. Attenzione, quando è che siamo veramente poveri? Faccio solo due esempi. Immaginate che c'è una catastrofe ambientale, non so, un'alluvione, una catastrofe ambientale. Questa è una situazione in cui veramente rischiamo di impoverirci molto, ma una che ancora che tutti capiamo ancora meglio è la guerra. Immaginate una grande guerra che distrugge veramente in parte le persone, cioè le uccide, ma distrugge le strade, distrugge le unità produttive, distrugge le relazioni. Quella, all'indomani di una guerra, è una vera crisi economica. Quella sì. Perché faccio, vi metto in questa situazione, vi faccio fare questa riflessione? Perché ora voglio invitarvi a questo stato di cose. Non è che la moneta manca del tutto, ma non ce n'è abbastanza in circolazione. Questa situazione di rarefazione monetaria, dobbiamo capirla. Quali conseguenze ha? Possiamo capirla mettendoci in una situazione radicale, quella di prima, in cui la moneta proprio manca. Ma cosa succede se non ce n'è abbastanza? Questa è la domanda. Mi sono perso un passaggio. Sì. Quando hai detto questa è una situazione di rarefazione monetaria, ti riferivi alla la situazione del post-guerra? No, non ho capito. Mi riferisco in generale a quello che potrebbe succedere in una situazione di rarefazione monetaria. Per capire l'oggi, ma per essere la situazione della rarefazione monetaria, come è uscita fuori? Ecco, questo mi sa. Sì, allora, come hai tirato fuori? Prima c'era una situazione in cui moneta in circolazione, la moneta in circolazione è proprio completamente sparita. Ora è più difficile capire cosa accade se di moneta in circolazione non ce n'è abbastanza. Perché rischiamo di non accorgersi e di attribuire le nostre difficoltà ad altro. Forse devo essere più esplicito e vi metto in questa situazione, guardate, per me è stato un lungo percorso, ma guardate cosa accade. C'è stato un terremoto nell'Italia centrale, da ultimo, l'Italia spesso. E noi, come sappiamo, insomma, molti centri storici sono stati distrutti. Ora attenzione, noi diciamo che se le persone vivono in luoghi, diciamo, affrontati per affrontare una situazione che è stata di allarme, ma ora vivono una condizione precaria ormai da molti anni, diciamo che sono in questa situazione perché non abbiamo abbastanza risorse finanziarie. Non ci sono abbastanza soldi, tanto che hanno chiesto di contribuire con un euro col telefonino. O se voi andate alla COP, credo che sia successo a ciascuno di voi, vi chiedono di prendere dei buoni da portare a scuola, perché così la scuola può comprare, cioè può avere, diciamo, in regalo, può avere una LIM, uno strumento, diciamo, didattico. Ora attenzione, ma noi prima abbiamo rammentato un articolo della Costituzione che dice, il primo, l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La domanda che vi faccio è: cosa serve per ricostruire effettivamente quella città storica che è stata danneggiata dal sisma? Cos'è che serve effettivamente? Vediamocelo. Ve lo chiedo. Cosa serve effettivamente? Lavoro. Serve il lavoro? Poi cos'altro? Secondo me lo stare per svolgerlo bene. Competenze per svolgerlo bene. E onestamente. Servono anche che cosa? Anche la ricompensa. Materiali. Ma anche la ricompensa del lavoro. Ecco, cioè. Ma poi tecnologie. Ma ora quindi abbiamo già enumerato disponibilità a lavorare, tecnologie, competenze. Ora mi dite una cosa, materiali. Ci manca qualcosa? Per me manca la collaborazione. Manca la collaborazione, sì. Ma ci manca qualcosa a noi per rimettere in piedi un centro storico? Quello che ti dicevo, la ricompensa per chi lavora. Ecco, ma la ricompensa che forma assume se non la somma del denaro? Ma se diciamo che non c'è il denaro, c'è un altro sistema. Noi lasciamo, per esempio, i nostri giovani che inoperanti, lui ha usato questa parola, cooperare, operare, no? Inoperanti, cioè impossibilitati a generare ricchezza, vera ricchezza. Allora la domanda che vi faccio è: ma perché nel primo articolo della Costituzione, poi quelli a seguire, c'è scritto che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro? Ha a che fare questo con la generazione della ricchezza? Bene. Volevo, Marino, usando proprio il termine di paragone degli eventi sismici, che possono essere appunto momenti sismici molto significativi per vedere come funzionano le comunità. Molti anni fa, forse 40 o più, ci fu un terremoto in Friuli, dove probabilmente le comunità erano ancora sufficientemente coese per essere in grado di sconfiggere completamente la macchina burocratica, l'accentramento della ricostruzione. Non ho memoria di casi in cui sia stato impedito alla popolazione di ricostruirsi la casa, cosa di cui invece ho memoria adesso, recentemente. Case precarie in legno, demolite a fronte di abuso edilizio per famiglie che avevano magari provveduto all'anziana che non voleva lasciare la sua casa, eccetera. Credo che il problema è questo, la prepotenza di un sistema basato sul denaro e sulla circolazione del denaro, piccoli centri chiudiamo le poste dicendo che abbiamo bisogno di risparmiare. Guardate questa situazione, immaginate che io abbia qui una bottiglietta d'acqua e voglio venderla a 2 euro o anche a di più, ma ci sono in giro, c'è in giro acqua pubblica dove c'è scritto questa è controllata dall'acquedotto comunale ed è potabile. Posso venderla per la bottiglietta a 2 euro? Io direi proprio di no. Comprerei anche un bacio questo. Nelle nostre scuole oggi i bimbi comprano l'acqua nelle bottigliette di plastica. La scuola è un luogo pubblico ancora che resiste. Come sapete la scuola, così come i nostri centri sanitari, si chiamavano USL, oggi si chiamano ASL. La scuola, accanto alla parola scuola è comparsa la parola azienda. E attenzione che non c'è più il preside, c'è il dirigente. Attenzione che noi non diamo più i voti, ma fateci caso che oggi come li chiamiamo? Debiti. Crediti e debiti. E tutto questo ha a che fare con una forma dell'economia, non solo, ma l'Italia, abbiamo cominciato a chiamarla l'azienda Italia. E tutto questo non a caso. E il luogo in cui siamo oggi è un luogo particolare, perché è stato costruito in certi anni in cui l'Italia era cioè aveva come guida la propria costituzione. Il piano casa mia. E tutto questo oggi sta sparendo del tutto. E per questo ci stiamo facendo queste domande. Attenzione. Se voi osservate il declino degli investimenti pubblici è pauroso. Non si fanno investimenti pubblici perché c'è un'altra parola che deve entrare in questo, che è la parola debito. Abbiamo troppi debiti. Allora qui è necessario capire cos'è la moneta anche in rapporto al debito. Che tipo di moneta circola? Dobbiamo capire la differenza tra moneta a debito e moneta a credito. Chi è che mette in circolazione la moneta? Il percorso è estremamente lungo, quello che vi sto proponendo, estremamente lungo, non facile, tortuoso, ma vitale, per capire lo stato di cose in cui viviamo oggi. È vitale. Allora, noi eravamo su una domanda veramente importante. Cosa succede se invece di sparire del tutto la moneta ce n'è poca in circolazione? Non c'è una paralisi completa. Ma cominciamo a percepirci poveri. Ora la domanda che vi faccio, ma noi siamo veramente poveri? L'Italia è un paese povero e vi pregherei di pensare alle ricchezze che abbiamo. Siamo ricchi perché? Questa è la domanda. Perché siamo ricchi? Crediamo davvero di essere poveri? Siamo ricchi perché abbiamo delle risorse ambientali enormi, cioè abbiamo potere che poi abbiamo quindi è fondamentale per l'approvvigionamento di cibo e dopodiché abbiamo risorse culturali che sono state tirate nel tempo e che ci costituiscono, perché è un substrato culturale continuiamo. Lui ha detto che era di cosa. Dici, abbiamo le risorse, in realtà l'acqua sta diventando il lavoro del pianeta, perché abbiamo, ci sono le, si sa, cioè, zone con carenza idrica, perché per cambiamenti climatici, per varie motivazioni, e quindi quando una risorsa viene a mancare, in realtà si genera la guerra, abbiamo visto, e quindi io credo che sia l'acqua dell'aspetto delle risorse. Non lo so, È interessante, come dici, torniamo alla bottiglia d'acqua. Come è fatto a fargli prendere valore? Comincia a chiudere le società pubbliche. Quando è che le cose prendono valore? Quando diventano scarse. Questo è molto importante. Ed è anche in una situazione di ricchezza, guardate questa situazione. Mi ricordo di averla sentita dire a un grande economista, Nando Pioppolo, che per far capire la situazione diceva: ci sono delle persone che stanno annegando, io vendo salvagenti, ce n'ho tanti di salvagenti, tantissimi, più delle persone che stanno annegando, ma li voglio vendere. Cosa faccio? Ne distruggo qualcuno, divento. Il prezzo lo posso far lievitare con il mare. Questa è una situazione che bisogna fare. Devi dire qualcosa? Sì, io voglio dire una cosa di quello che ho detto. Un attimo. Qua c'è stata la mia Firenze, che è stata una volontaria per questa cosa. Le bottiglie di acqua minerale non si possono pagare 500 lire. 500 lire non sono neanche, nemmeno oggi costano tale. Erano tanti soldi nel 60. Erano tanti soldi a quell'epoca. Io non me lo sono mai dimenticato. E come mai? Questa è una considerazione estremamente importante. Dobbiamo pensare a cosa succede quando le cose sono rare. Esatto. Noi oggi non viviamo più nell'epoca della scarsità. Guardate che noi viviamo in un'epoca che ha superato il paradigma della scarsità. C'è un'abbondanza di tutto. Anche una cipolla può costare in tempi di guerra, per averla posso spendere moltissimo denaro. Perché? Perché non c'è chi la produce. Questo è il motivo. Allora, dove sta la ricchezza? Nella capacità di produrre ciò che ci serve. Ma attenzione, torniamo ai nostri ragazzi che non lavorano. Quando per esempio il patrimonio storico-artistico richiederebbe il loro intervento e le loro competenze. Quando abbiamo detto che il sistema idrogeologico richiederebbe competenze e intervento per prevenire danni. Non lavorano quando ammassiamo per esempio 30 studenti all'interno di una classe. Potremmo farne invece due, questa è la prima riforma che dobbiamo fare, due e quindi molto meglio, no? Dare lavoro ad altre persone, ma diciamo non abbiamo i soldi per farlo. Per queste ragioni ed altre ci stiamo chiedendo cosa sono i soldi, ma ci stiamo chiedendo anche, è vero che siamo poveri? No. E lui ha già cominciato a delineare una parte della ricchezza che abbiamo. Io vi devo dire che siamo tra i paesi più ricchi al mondo. Ora, aggiungerei a quello che ha detto Tommaso, che viviamo, non so se lui ha parlato di, mi pare che a un certo punto hai detto paesaggio, no? Sì, no, forse no. Però noi, sapete, ci spostiamo, pensate all'America, noi ci spostiamo facendo pochi chilometri dalla costa, abbiamo chilometri di costa, facendo pochi chilometri, attraversando città d'arte storica, città d'arte, ci spostiamo e arriviamo in collina, dopo pochi chilometri, e dopo pochi chilometri abbiamo la montagna, E in tutto questo c'è la storia, la cultura, no? Questa è una situazione rara al mondo. Solo questo ci rende ricchi. Cos'altro? Sappiamo vedere la ricchezza che abbiamo? Sappiamo vederla? Cos'altro? Non si fa più a pensare proprio a chiudere. Sì, ho la chiave. Va bene? Sì. Grazie. Arrivederci. Cos'altro? Sappiamo vedere la ricchezza che abbiamo e sappiamo vedere ciò che sprechiamo. Ma io prima mi riferivo a Danilo Dolci. Danilo Dolci in quegli anni scrive un libro grosso così, intitolato Spreco. Infatti io volevo dire appunto che a me manca la consapevolezza del fatto che certe persone usano l'acqua moderatamente e altri non ce l'hanno. Secondo me anche questo prendere insomma consapevolezza che non siamo soli, ma ci sono gli altri, diventerebbe una ricchezza per tutti. È importante come dice, no? Quindi c'è un sistema di cose per cui la ricchezza non la distribuiamo e succede che si concentra nelle mani di pochi. Esatto. Troppo nelle mani di pochi. Esatto. E sperimentiamo la povertà e la miseria. Ci sono oggi, dati ISTAT, 5 milioni di poveri assoluti. Assoluti significa per la strada, sì. Che non hanno un tetto, non hanno nessuno, sono quelli che chiamiamo i senza casa. Qualcuno li chiama i barboni, così via. 5 milioni in continua crescita. 5 milioni in Italia? In Italia, sì, no. Sì. E il trend con cui sono aumentati nell'ultimo decennio è spaventoso. E la cosa terrificante è che questo trend in ascesa continua. Ma ci sono 10 milioni di persone in povertà relativa e abbiamo metà dei giovani che non trovano lavoro. Attenzione, la situazione si complica per il fatto che molto lavoro viene incorporato nelle macchine che, diventando capaci di sostituire il lavoro umano, non solo il lavoro manuale, come si potrebbe pensare, ma anche un lavoro molto più sofisticato. Pensate che ci sono macchine che riescono a scrivere articoli di giornale. Ci sono macchine che fanno le diagnosi. Ci sono macchine che lavorano negli studi legali e sostituiscono il lavoro di molti avvocati. Si possono interrogare e facilmente danno le risposte relativamente alle normative, alla qualità di un certo processo. Insomma, moltissimo lavoro umano, non solo manuale, viene sostituito, ma nella situazione in cui noi siamo, questo libera tempo di lavoro nella forma della disoccupazione. Mentre se il sistema economico lo permettesse, dovrebbe liberare lavoro, cioè dovrebbe liberarci da un certo tipo di lavoro e ridistribuire la parola. Distribuire il tempo a ciascuno di noi in proporzione. Ma noi oggi, ci viene detto, nel sistema economico in cui viviamo, non possiamo permetterci di abbassare il tempo di lavoro. Facciamo esattamente il contrario, andiamo in pensione più tardi. Quelli che lavorano li facciamo fare più lavoro. E il lavoro si frammenta. Completamente, si lavora a tempo. Ai ragazzi diciamo, devi lavorare gratuitamente, nella speranza, se ti comporti bene, se ti fai vedere, di avere un lavoro a più lunga scadenza. Il lavoro si frammenta, abbiamo fatto leggi che hanno permesso questo, hanno trasformato la flessibilità in precarietà. E diciamo ancora, perché non abbiamo risorse. Non ti posso pagare. Capite che c'è qualcosa di estremamente importante. Ma allora siamo poveri? Perché non riusciamo a raccogliere il lavoro dei giovani e lo sprechiamo? Capite qual è la situazione, il paradosso all'interno del quale viviamo? Giorno per giorno siamo circondati da lavoro incompiuto, eppure mandiamo i nostri giovani all'estero. I giovani migliori vanno all'estero. E cosa gli diciamo? Gli diciamo: non ci sono soldi, abbiamo da ripagare un debito che chiamiamo debito pubblico. E dovremmo aggiungere al debito pubblico il debito privato, più alto del debito pubblico. E poi un enorme paradosso. Lo sapete che le famiglie italiane hanno 4.300 miliardi di risparmi, di cui 1.400 nei conti correnti. Non sanno come utilizzarli. Sono diventati estremamente diffidenti. Questi 4.300 miliardi, nella situazione odierna, rischiano di volatilizzarsi per mille motivi. Alle famiglie viene proposto di comprare titoli tossici, spesso derivati, proposti da banche d'affari. Questo è un altro capitolo che voglio aprire così, semplicemente per dare una visione più ampia. Attenzione che quello che abbiamo intrapreso è un percorso difficoltoso, ma è essenziale affrontarlo. Difficile, ma è essenziale affrontarlo. Quindi io quello che sto facendo è sto mettendo in mente tutta una serie di interrogativi. Prego. A un certo punto avevi detto: chi è che detta le regole? Chi è che detta le regole? No, anzi, che cosa succede se la moneta corrente era rifatta? No. Allora, mi è venuto in mente. Se non ce n'è abbastanza. Se non ce n'è abbastanza, se viene da rifatta. Allora, la mia cosa è che chi ha la moneta, chi la detiene, detta le regole che gli altri osservano. E poi osservavo anche il fatto che economia in fondo deriva da oikos nomos. Oikos è casa, nomos è la norma. Sono le regole della casa. E se le regole della casa le fa appunto chi ne ha di più, è capace di modificarle, come sta avvenendo sotto i nostri occhi. A questo si è aggiunto un altro pensiero, che non essendo più la moneta legata alle riserve aurifere di un paese, ma essendo stati, tra virgolette, scalzati dalla sovranità monetaria, l'Italia, entrando diciamo nella comunità europea finanziaria, questa moneta viene coniata da, non dal nostro paese, ma da altri istituti che ce la, tra virgolette, vendono. Quindi non è più roba nostra, non la gestiamo noi e siamo col cappio al collo, perché le regole le fanno loro, certo. E ci tengono in ostaggio. Però tutto questo io lo so in maniera, diciamo, abborracciata e molto da poco. Quindi le volevo dire perché le legavo insieme alla domanda. È importante la domanda che hai fatto. Ma chi la detiene? Perché chi la detiene, ha detto, sarà colui che detta le regole. Sì. Questo è estremamente importante. E rischia di cambiare il concetto stesso, lo scopo dell'economia. Perché noi dobbiamo interrogarci e capire qual è lo scopo dell'economia. Allora, di sicuro vi sarà arrivato, a chi più, chi meno, che l'economia oggi è un'economia tutta finanziaria, a discapito dell'economia reale. Ci sono un mare di soldi, perché l'economia, perché la moneta ormai è fiat. Ma attenzione, questi soldi arrivano all'economia del concetto di oikos, di casa, la legge, perché una casa, cioè la nostra comunità, possa essere vitale per un suo futuro. Arrivano all'economia reale, cioè? È questo uno dei nodi. Ci sono moltissimi soldi che circolano altrove. Dove? Questa è una domanda estremamente importante. Nell'economia finanziaria speculativa, dove si cerca di fare soldi con i soldi, bypassando l'economia reale. Questa è una condizione di fatto che noi viviamo. Torniamo a quei 4.300 miliardi. Risparmio delle famiglie. Attenzione, eravamo ricchi, tanto che riuscivamo a mettere da parte negli anni 80 fino al 25% in media di ciò che guadagnavamo, del nostro reddito, ma in media, un quarto. Oggi siamo ridotti al 2% in media. Ma quella ricchezza che accumulavamo, che diventava risparmio, era messo in circolazione, non stagnava. Possiamo interrogarci come realizzavamo questo obiettivo. Basta consultare la Costituzione, il titolo 3 della Costituzione, la Costituzione economica, e leggere l'articolo 47, e poi vedere. Ma attenzione, il risparmio, secondo le regole costituzionali che ci siamo dati con la Costituzione del 48, veniva protetto e allo stesso tempo messo in circolazione per finanziare l'economia reale e gli investimenti pubblici. L'isolotto, cui noi siamo, è uno di questi prodotti. Avevamo capacità di investimento pubblico, avevamo capacità di spesa pubblica. Potevamo investire nella scuola, nelle università, nella ricerca pubblica, nei servizi pubblici, sanità. Dobbiamo interrogarci su cosa è successo e a partire da quando. Questa, tu hai accennato, Laura, lei ha detto la parola sovranità monetaria. E la domanda è cosa è successo a partire dagli anni Ottanta. Qui entriamo un po' più nello specifico, no? È stato emesso tutto un argomento di indagine, di ricerca, e io sono rimasto assai sorpreso nel capire determinati meccanismi. Cioè, come ci siamo impoveriti? Non è vero che non abbiamo più sovranità monetaria, ma non la esercitiamo più. Però, attenzione, dobbiamo capire che cos'è la sovranità monetaria. Lei ne ha accennato. Noi oggi siamo in una situazione in cui, come comunità nazionale, mentre prima i soldi come comunità nazionale, semplicemente li mettevamo in circolazione, oggi ce li facciamo prestare. Da chi? Dai mercati finanziari. E attenzione che tutta la moneta che è in circolazione è moneta a credito. E qui dobbiamo capire la differenza tra moneta a credito e moneta a debito. Allora, per capire questo, un piccolissimo esempio. Piccolissimo, per capire la moneta a debito. Cosa significa? E attenzione che tutta la moneta che entra in circolazione oggi è moneta a credito. Scusate, sì. Allora guardate, immaginate che ciascuno di noi va in banca e chiede 1000 euro per uno, d'accordo? Siamo in 10, immaginate che abbiamo 10.000 euro. Beh, allora, prima di tutto, noi abbiamo ancora in mente che la banca presta i soldi che qualcun altro ha portato in deposito. Levatevelo dalla mente, non è così che funziona la banca. Chi lo dice? La Banca Centrale d'Inghilterra, per dirne una. Beh, la banca può scrivere sul vostro conto, se andate a chiedere non 1000 euro ma un mutuo, può scrivere 100.000 euro. Deve possederli 100.000 euro perché qualcun altro li ha portato? Non necessariamente. Chi è che invera il valore del denaro che vi presta la banca? Chi è che lo invera? Voi dovete lavorare per 30 anni, se avete fatto un mutuo trentennale, e siete voi col vostro lavoro che inverate il valore della moneta che non a caso si chiama scritturale. E la volta che ho scoperto che non esiste il vuoto, per i fisici c'è il vuoto quantistico, è estremamente attivo, nel senso che dal vuoto vengono fuori particelle, che i fisici chiamano virtuali, ma che possono diventare reali. Cioè, l'universo stesso è dal nulla, ma attenzione, qui la situazione è diversa. Se voi andate in banca e chiedete un mutuo di 100.000 euro, non è detto che la banca abbia quei 100.000 euro perché qualcun altro l'ha prestato. Cioè la banca non è un istituto di intermediazione finanziaria, no. Ci sono gli istituti di intermediazione finanziaria, ma non la banca. La banca non è costretta ad avere quei 100.000 euro, il sistema bancario. Scrive 100.000 euro sul vostro conto. Ora, attenzione, chi è che dà valore a questa moneta che è chiamata scritturale? Ripeto, voi lavorerete per 30 anni, creerete vera ricchezza e porterete i soldi in banca. Ma c'è una questione. Voi portate i soldi in banca, se vi hanno prestato 100, dovete portare 105 se c'era un tasso di interesse del 5%. Se è all'anno, dipende da quanto dura il vostro prestito. Questa è cosa che tutti sappiamo, no? Interesse semplice, interesse composto e così via. Ora attenzione, abbiamo detto che la moneta che è in circolazione oggi è solo moneta a debito. La banca crea 100, 100, se le ha chiesto 1000, se le ha chiesto 100, 100, ma crea la moneta corrispondente all'interesse con cui che io devo aggiungere al capitale che mi è stato prestato? Non lo crea. Allora attenzione, qui c'è un elemento fondamentale, strutturale nella condizione in cui siamo oggi. È sempre stato così? Per molto tempo, sì, ma quando esercitavamo sovranità monetaria era molto più facile. Allora, attenzione, dove ritroviamo i soldi per restituire il capitale? Dobbiamo lavorare, ma dobbiamo competere. Strutturalmente siamo costretti a competere per fare più soldi di quelli che ne hanno prestato, perché tutta la moneta in circolazione è moneta prestata, e qualcuno deve necessariamente fallire. Cioè, la competitività è voluta, strutturale, non è qualcosa di naturale. Naturale è la collaborazione, un'economia fatta per collaborare, costruire la casa comune, come tu hai detto prima. Ma strutturalmente, perché pensate che qui a Firenze, Girolamo Savonarola e altri, San Francesco, ce l'avevano con l'interesse? Questa è una condizione strutturale, a cui dobbiamo pensare. Ora guardate, la moneta di Stato, ne abbiamo un esempio. Aldo Moro fece circolare a un certo punto le 500 lire con su scritto Repubblica Italiana, quella era moneta di Stato, non a debito. Bene. Moneta di Stato non ha debito. Ha lo stesso segno al debito delle tasse, io la posso mettere in circolazione. Quanta ne posso mettere in circolazione? Secondo quello che dice la Costituzione, finché ci sono fattori produttivi inespressi, disoccupazione, la Costituzione dice pieno impiego. Allora, se ci sono fattori produttivi inespressi, io posso mettere in circolazione la moneta mancante ad attivare le energie del paese perché costruiscono la ricchezza. Ma se c'è poca moneta in circolazione, noi avremo una sensazione di povertà. Noi saremmo indotti a pensare di essere nei guai, pur vivendo in una situazione estremamente paradossale, che è quella che vi dicevo prima. Da una parte lavoro incompiuto, dall'altro chi questo lavoro lo potrebbe fare e gli viene detto non lo puoi fare perché mancano i soldi. Cioè mancano che cosa? Come hai detto tu, un segno, un simbolo, l'unità di misura del valore. Qualcuno, un grande economista del passato, ha detto, sarebbe come dire che non posso costruire una strada perché mi manca l'unità di misura per poterne misurare la lunghezza. La vera ricchezza, chi la fa? Torniamo a quella persona che si trova con 1 milione di euro su un'isola deserta. Può morire di fame se non sa, se non ha competenze, se non sa lavorare. La ricchezza non è nei soldi, ma è in quello, come dice la Costituzione, nel primo articolo, dice l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo. Teresa Mattei, che ho avuto la fortuna di conoscere, grande costituente, dice la sovranità è più importante, dice, della democrazia. Lo dice Teresa Mattei, no? Volete poi, chiedete, vi mando il link Teresa Mattei, quando ancora non parlavo di sovranismo, perché sovranismo oggi è diventata una brutta parola, forse non a caso, perché non si aggiunge l'altra parola, popolare. Come dice la Costituzione. Attenzione, dice Teresa Mattei, e qualche giorno fa era una scuola elementare e lo dicevano i bambini, che chiedevo, ho fatto leggere un articolo della Costituzione. Una bambina ha detto, sovranità significa questo, che non c'è più il re. E quindi comandiamo noi. Questo significa sovranità popolare. Esattamente quello che dice Teresa Mattei. Teresa Mattei dice quando ciascuno di noi nasce viene dato un pezzetto di questa sovranità, no? Ora pensate che noi oggi, che è quello che Paolo Maddalena denuncia, il fatto, grande costituzionalista, è stato alla Corte dei Conti e dice stiamo vendendo persino il demanio. Lui dice questo. Stiamo vendendo il demanio. Cioè lui ci sta dicendo, noi stiamo vendendo tutto. Sì, sì, tutto. Ora, se io vi facessi vedere, avendo tempo, l'elenco di ciò che abbiamo privatizzato, guardate che c'è da infallire. Sì. Lo sapete chi tiene in piedi l'economia italiana? Non c'è più la grande impresa, non c'è più, è sparita, non c'è più. Non c'è più la media impresa, c'è la piccola impresa. Quant'è la piccola impresa? Il 5%. Ma allora tutto il resto? Microimpresa. Cos'è la microimpresa? Meno di 10 dipendenti. Cioè un'impresa a conduzione familiare tiene in piedi l'Italia. E cosa rimane della grande impresa pubblica? Il 20% di quello che avevamo. Trasformato in società per azioni. Anche qui una domanda, cos'è una società per azioni? Come funziona? Ricordate quando ragionavamo intorno all'acqua? Cos'è una società per azioni? Perché anche le piccole banche, abbiamo formato le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le abbiamo rese scalabili, cioè acquistabili dalle grandi banche d'affari? Erano quelle banche che anche in periodo di crisi aiutavano la microimpresa, le piccole banche popolari, anche le casse di risparmio, le banche di credito cooperativo, si comportano, dicono gli economisti, in maniera anticiclica. C'è la crisi, ti aiuto lo stesso. Una banca che, di cui noi siamo praticamente gli inventori, sparsa sul territorio, beh, la piccola banca oggi sta per essere assorbita dalle grandi banche d'affari. Prima le banche potevano fare o affari o potevano prestare soldi all'economia reale. Beh, a partire dagli anni 90 non abbiamo più banche pubbliche, tutte privatizzate, e alle banche abbiamo detto: potete fare quello che volete, cioè potete lavorare nell'economia finanziaria. Cioè la distinzione tra banche d'affari e banche che fanno prestiti all'economia reale è venuta a cadere. Lo sapete quando era stata attivata? In America, si chiama Glass-Steagall Act, subito dopo la crisi del 29. In Italia, Glass-Steagall Act in America ha detto alle banche: guardate che casino che fate, la grande crisi del 29, non potete più fare come facevate, dovete decidere, non c'è più la banca universale, o da una parte o dall'altra. In Italia questo è stato recepito nel 36, c'erano i fascisti, ma era la legge bancaria del 36. Sapete quando è stata demolita? Negli anni 90. Bravo. Clinton in America, Draghi in Italia. Questa è la situazione difficile. Ma ora attenzione, ritorniamo alla moneta. Non esiste una moneta non capitalista, non accumulabile. Vi dico che esiste. E sapete quando è nata? Non a caso è nata nel 1934 in Svizzera ed è tuttora vigente. Cioè, si chiama Wir. Wir in tedesco significa noi. Non a caso abbiamo scelto questo nome, è anche un acronimo, però abbiamo scelto questo nel 1934, in una condizione di estrema rarefazione monetaria, si facevano molti esperimenti. Guardate l'esperimento del Wir. L'hanno studiato i sardi che hanno messo in piedi un circuito di credito commerciale, cioè una rete di mutuo credito. Ora vi voglio portare a questo, I sardi, in provincia di Cagliari, un gruppo di 4 persone, all'indomani della crisi del 2007-2008, si sono chiesti: ma noi... Sardex.net. Allora, loro si sono chiesti all'indomani della grande crisi, quella ultima per cui faceva la domanda Dallas, ricordata nel 2007, sono chiesto, ma noi siamo poveri, mancano soldi, però sappiamo fare un sacco di cose qui in Sardegna, no? E qualcuno di loro, attenzione, nessuno di loro è economista, questa è una cosa estremamente interessante, sono andati, però c'era un filosofo, storico, insomma avevano varie competenze, sapevano del business, sono andati in Svizzera a studiare il business. Io ora vi devo, vi darò un foglio e da questo foglio cercherete di capire il più possibile su Sartre, questo è il Sartre. Vi dico subito questo, è un sistema di baratto moderno, multilaterale, che utilizza la tecnica della camera di compensazione. Somiglia molto a una banca del tempo, ma che funziona in maniera diversa, perché nella banca del tempo è interessante, la moneta che possiamo scambiare è il nostro tempo. Ma non possiamo scambiare in una banca del tempo oggetti, merci, ma solo servizi. Allora, che cos'è un circuito di credito commerciale, ossia una rete di mutuo credito? Attenzione, queste parole sono tutte importanti. Rete, mutuo credito, circuito, credito commerciale. Cioè, come si fa se non abbiamo abbastanza soldi, se non c'è abbastanza moneta in circolazione? Cosa possiamo fare per valorizzare le nostre capacità, la nostra competenza e la ricchezza che abbiamo, non svenderla, come abbiamo fatto sistematicamente ormai per qualche decennio. Allora, questa è una prima cosa. Vi dico subito che è necessaria, ma non è sufficiente. Però ne dobbiamo parlare. Ora io vi darò un foglio in cui c'è qualche notizia sul Sardex. È una società che vende servizi, prende soldi? No. Come si può dire? No. No. Non usa soldi. Come? Non usa soldi. Ah, fa economia senza soldi. No, guarda, tanto allora, tu fai circolare da questa parte un foglio per uno. Ma non usa soldi per niente, quindi la fa. Ora vediamo. Cioè, no, perché siccome la conosco per altri versi, però non sapevo bene come funziona. Grazie per questo. No, adesso voglio risultare. Allora, prendetevi qualche minuto e leggetevi questo foglietto, cercate di capire il più possibile, dopodiché direte quello che vi sembra di aver capito, le domande che vi vengono in mente, in modo che... Sì. Non abbiamo ancora un Toscanes, ma attenzione che molte regioni d'Italia questo circuito di credito commerciale regionale si sta estendendo e sta diventando un metacircuito. Ora poi vi racconto, intanto prego. Quindi leggetelo con questa idea. Dite, ho capito questo, questo mi è oscuro, questo mi interrogo su questo e così via. Bene. Beh, ci vorrebbe una settimana, no?